Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Parleremo di lumache, teatro e probabilità, pettegolezzi. Non dovrebbe sorprendervi perché questo è Mebius. Benvenuti e benvenute e ascoltiamo i titoli. Il calcolo della probabilità sale sul palcoscenico nell'ultimo spettacolo della rassegna Teatro in Matematica. Fa la fotosintesi come una pianta, ma è un animale. L'evoluzione seleziona i migliori, ma forse il caso non è da meno. Anche le macchine evolvono come gli animali, alcune mutano, altre si estinguono. Le virtù del pettegolezzo. Alcuni ricercatori ne hanno misurato il valore antropologico e sociale. Eurodish. Insegue la luce come un girasole e la trasforma in energia. Disse un grande scienziato: è sorprendente che una scienza nata per questioni riguardanti giochi d'azzardo stia diventando l'oggetto più importante della conoscenza umana. Le questioni serie della vita sono quasi sempre solo problemi di calcolo delle probabilità. Questo grande era Pierre Simon, marchese di Laplace. Cosa c'entra con quello che stiamo per dirvi? Ve lo spiega Chiara Albicocco. Si è appena concluso qui al Teatro Carcano di Milano lo spettacolo Il caso, probabilmente, la partita a dadi. Questa commedia noir dalle tinte un po' fumettose fa parte della rassegna Teatro in Matematica, che per questo 2010 volge al termine. Qui con noi c'è l'ideatrice e l'attrice principale dello spettacolo, Maria Eugenia D'Aquino. Questo è un viaggio che ormai continua da tanti anni, credo forse da 10 anni addirittura, e da 2 anni qui ospitato al Teatro Carcano, che consente anche un'affluenza, un numero di persone. Abbiamo deciso anche di proporre i nostri spettacoli un po', diciamo, anche molto rivolti al mondo degli studenti, anche al pubblico della sera, insomma, raccogliendo insomma molti consensi. La storia è lunga di questo. Questa volta vi siete un po' divertiti a creare una stessa scena con diversi esiti, un po' come il calcolo delle probabilità, diciamo, a cambiare il destino delle cose. Sì, un po' alla Sliding Doors, quel film di un po' di anni fa. Questo è stato il lavoro principalmente di Riccardo Mini, del drammaturgo, che con Tulliano Rando e col professor Colorni hanno cercato di mettere insieme così gli elementi della probabilità ed è stato proprio, diciamo, trascinato nel costruire questa storia ad albero, quindi con diversi esiti. È uno spettacolo per noi attori diabolico, per noi perché rifare una stessa scena che non viene mai uguale alla precedente, anche quello è un gioco nel gioco. E poi ricordarsi le giocate del test croce, delle partite di dadi, diciamo che è abbastanza impegnativo, però insomma credo che il risultato sia gradevole. È successo qualcosa di grave? Scusami Anna, ma devo proprio andare. Mi dispiace, ma non puoi finire la partita? No, grazie, un'altra volta. Mi dispiace, tieni, prendi i tuoi 50 euro. Ah sì, grazie. No, scusa, me ne devi di più. Ma abbiamo messo 50 euro a testa. Sì, ma io stavo vincendo 9-3 e ci voleva ancora una testa per fare 10, mentre a te ci sarebbero volute 7 croci di fila per vincere. Il che tradotto in probabilità significa un mezzo alla settima, che è tradotto in calcolo è 0,0078, che porterebbe la probabilità al 99% circa. Ma cosa stai dicendo? Sto dicendo che mi devi 99 euro. In realtà la matematica non è così lontana dal linguaggio teatrale. Ci sono tanti aspetti proprio sia all'interno del pensiero matematico, ma nelle teorie matematiche stesse, che un po' come spieghiamo poi e facciamo vedere alla fine dello spettacolo, sono molto vicine anche al linguaggio teatrale. Quindi questo nostro progetto del teatro in matematica si ripropone di riscoprirle e di aiutare un po' quelli che hanno abbandonato la matematica sui banchi di scuola e non ne vorrebbero mai più sapere. In realtà con questo spettacolo ci avete fatto capire che è anche molto vicina alla realtà, nel senso che quella che è stata una teoria studiata per il gioco d'azzardo, quindi i dadi, la roulette, eccetera, eccetera, in realtà è quello che accade tutti i giorni, il caso. Certo, difatti poi tutte le varie applicazioni, anche diciamo dei moniti detto da dei probabilisti di fare attenzione con i giochi d'azzardo, con i superenalotti vari e non rischiare troppo, insomma, perché va bene il caso, ma... Vogliamo dire cosa ci ha consigliato la professoressa di matematica prima di finire? Di giocare al rosso e il nero della roulette e non al superenalotto, quello è un leggermente più sicuro, però insomma, forse è meglio non cimentarsi troppo nel gioco d'azzardo. Quant'era la posta? 50 euro. Casa di Mica, domenica, ore 19. E la scommessa? Allora, dovevo scegliere un numero e poi tirare il dado 3 volte. Se fosse uscito almeno una volta il mio numero, vincevo. Non capisco perché tirare il dado 3 volte. Perché così avevo una probabilità su 2 di vincere. Non è vero? Ti hai ingannato? Ogni volta che tiri il dado hai la stessa probabilità di vincere, vale a dire un sesto. Ogni tiro è indipendente dall'altro. Se tiri 3 volte il dado, le probabilità che hai di vincere non sono del 50%, ma del 42% circa. Al termine dello spettacolo, la matematica statistica Tullia Norando del Politecnico di Milano ci spiega cosa sono e come nascono le probabilità. La probabilità esprime il grado di fiducia che ne riponiamo nel verificarsi di ciascuno degli esiti alternativi di un esperimento. È la definizione che adesso accettiamo per probabilità, il significato che diamo a questa parola. Ma questa definizione che vedete non appartiene all'antichità, perché le probabilità sono qualcosa di antico come l'uomo. Appartiene invece agli anni 30 del Novecento, e mi fa piacere dirlo, si deve ad un matematico italiano, Bruno De Finetti, che in quel periodo diede una voce a quella che è la sensibilità delle probabilità. Ma dove inizia la storia delle probabilità? Inizia da un gioco, proprio il gioco del dado, e nei reperti dell'antichità, ma nella preistoria, c'è qualche cosa di simile che ricorda il gioco del dado. Magari si usava per divinazione, magari chissà. Nell'epoca storica, ad esempio nelle tombe egizie, voi trovate dopo i dadi cubici, come quelli che usiamo noi, magari sopra con dei simboli diversi. E in questo gioco appare anche quello che è una definizione di probabilità, di tipo classico. Ci è indifferente il fatto che esca 1 piuttosto che 2 o 3 o 4 o 5 o 6. Prima di eseguire l'esperimento, noi sappiamo che uscirà senz'altro uno di questi numeri, ma non sappiamo quale. E poiché sono tutti uscite esiti indifferenti del gioco, 1 su 6 è giustamente la probabilità che esca ciascuno. Come vedete, la probabilità è matematica, perché questo grado di fiducia si traduce in un numero compreso tra 0 e 1. Ma si comincia a fare del calcolo, perché interessa qual è la probabilità che uno non esca. E allora, se 1 su 6 esce 1, 5 su 6 non esca. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Nel gioco di oggi dovete pesare l'aria. Siamo al nostro quiz. No, dunque, in una stanza di normali dimensioni, diciamo 5x4 metri, quanto pesa l'aria che nella stessa stanza è contenuta? Per essere più precisi, diciamo anche che la temperatura è di 0 gradi e la pressione è quella a livello del mare, ma la sostanza del risultato non cambierebbe molto, a meno che la vostra stanza non sia 10.000 metri. Allora, prima possibile risposta, 7 kg, ci scriverete 7, 9 etti, ci scriverete 9, 96 kg circa, ci scriverete 96, dove? Beh, con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Le immagini della scienza, 5.000 anni di scoperte, una storia visiva di John Barrow, edito da Mondadori. In collaborazione con IBS.it. Dalle lumache allo spazio con Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao, ciao a tutti. Allora, cominciamo dalle lumache, da una lumaca. Qual è il suo nome scientifico? Si chiama Elisia, sono delle lumacone marini. Elisia, però è un bel nome, eh? Sì, è un bel nome, è un bel nome. E ce ne sono qua nel New England. New England è dalle tue parti? Eh sì, sì, sì, costa est degli Stati Uniti. Va bene, non so, ne hai già incontrate tu? No, forse sono un po'... Non sono andata a cercarle, ma adesso che so che esistono. Cosa fanno di particolare? Io ho letto qualcosa, insomma, fanno la fotosintesi, ma sono lumache o piante? Sono lumache fotosintetiche, sono mezzi animali, mezze piante praticamente. Come funzionano? Sono molto affascinanti. Praticamente, vabbè, c'è una mutazione del DNA che non è ben chiaro come sia avvenuta, e che permette a queste lumache di fare la fotosintesi. Prima di procedere però hanno bisogno di farsi una scorpacciata di alghe. Si mangiano i cloroplasti, che sono degli organelli delle cellule vegetali che svolgono la fotosintesi. E però una volta che si sono appropriate, diciamo, che hanno rubato abbastanza cloroplasti, poi possono diventare fotosintetiche fino a 10 mesi. Per cui per 10 mesi possono vivere benissimo senza mangiare, ma semplicemente svolgendo la fotosintesi. Però insomma, queste lumache vivono per un po' come animali, per 10 mesi, e poi dopo sono degli animali in veste di pianta, insomma. Sì. E quindi per un certo periodo diventano quasi delle piante. Ma ti chiedo anche come iniziano, cioè le lumache saranno anche loro piccoline. Quando nascono infatti non sono in grado di svolgere la fotosintesi, dopodiché quando mangiano una quantità sufficiente di alghe, quindi di cloroplasti, possono iniziare a svolgere, una volta praticamente superata la fase di larva, possono iniziare a svolgere la fotosintesi. C'è un filmato su YouTube, se mettete il nome ripetilo, com'è il nome? Beh, in realtà il nome completo sarebbe Elisia clorotica. Però Elisia con la Y lo trovate? Sì. E lo si vede che effettivamente sta mangiandosi delle alghe, deve essere stata ripresa nel momento in cui sta ricaricandosi. E hanno un colore anche, alcune verdastro, altre più blu. Sì, sono buffe perché hanno tutti delle ali che muovono come le grandi razze, per esempio, no? Marine. Queste sì, così hanno anche una superficie proprio maggiore per abbracciare le loro alghe. E sono delle lumache comunque delle dimensioni di 10 centimetri, per questo li chiamerei lumaconi. Sono dei lumaconi. Ecco, però dal punto di vista così biologico è chiaro che questi animali vanno a caricarsi di cloroplasti e quindi fanno la fotosintesi. Però vuol dire che hanno dentro un'istruzione genetica che gli consente di fare questo, no? Sì. Cioè, esatto, infatti sono interessantissimi dal punto di vista genetico per questa modifica del DNA che proviene in origine dalle alghe, per cui da un lato appunto hanno il DNA che è già predisposto. È qualcosa che hanno ereditato in qualche modo dalle alghe, non si sa bene come. Qui e ci fermiamo, poi... esatto, perché la ricerca non ha ancora dato niente, però qui c'è veramente una cosa misteriosa su questi organismi. Esattamente, c'è anche una specie che vive nell'Adriatico, però non è in Istria, però non è verde. Non è verde? No, sì, quelle più semplici da studiare a quanto pare sono quelle dalle mie parti. Sono quelle nel New England. New England e Canada, sì. Grazie Paola per le informazioni su queste strane lumache che ci sono dalle tue parti. Ciao! Vi daremo in questa puntata due particolari punti di vista sull'evoluzionismo. Il primo, che ci parlerà del caso come motore del cambiamento, ve lo propone Barbara Gallamotti. Ci sono scoperte talmente rivoluzionarie che nell'immaginario collettivo restano cristallizzate. Per esempio, l'osservazione che sia la Terra a ruotare intorno al Sole, oppure la teoria dell'evoluzione. Ebbene, anche per queste teorie il tempo passa, in realtà, e sulle loro fondamenta le nuove conoscenze costruiscono delle specie di edifici che diventano giganteschi e cambiano il panorama. A volte però stentiamo a notarli e continuiamo a limitarci a fissare estasiati quelle incredibili fondamenta. Cosa hanno edificato generazioni di biologi sulla base dell'osservazione di Darwin? Se ne è parlato a Roma in un caffè della scienza organizzato dagli studenti di un corso di comunicazione dell'Università di Roma 3 e fra gli ospiti c'era Andrea Novelletto, genetista all'Università di Tor Vergata, sempre a Roma. Buonasera. Buonasera. Nel corso dell'incontro lei ha individuato un punto cruciale su cui i biologi si sono confrontati, che è quello della selezione naturale. Ci può spiegare in che senso questo è al centro della discussione? La principale intuizione di Darwin è che il meccanismo di evoluzione si basa su una modificazione progressiva del modo con cui i gruppi di organismi sono costituiti. Quindi quello che cambia è la percentuale di individui portatori di certe caratteristiche. La selezione naturale è la forza che permette questo cambiamento secondo la teoria strettamente darwiniana. Ecco, però proprio su questo punto i biologi nel corso degli anni hanno avuto qualcosa da aggiungere. Assolutamente sì, perché soprattutto nella prima metà del 1900 sono incominciate a emergere delle osservazioni che non andavano d'accordo con i meccanismi che Darwin aveva supposto per la trasmissione dei caratteri ereditari. E questo creò una grossa difficoltà alla teoria darwiniana, che fu risolta dall'elaborazione di una teoria ancora più ampia che si chiama nuova sintesi o biologia evoluzionistica sintetica, che mette insieme i dati della genetica e i dati delle osservazioni sul campo. E quindi quali sono i risultati? Quello che è emerso è che non c'è solo la selezione naturale come forza che è capace di cambiare la composizione dei gruppi di organismi, ma ce ne sono altre. Ad esempio, una è il puro e semplice caso. Il caso è una forza che agisce generazione dopo generazione ed è in grado di cambiare la composizione dei gruppi di individui. Un altro è la fondazione. Ci stanno molte popolazioni o molte specie, sia umane, sia popolazioni umane, sia altre specie, che nascono a partire da un piccolo numero di fondatori. E quindi tutti i discendenti saranno portatori di quelle poche caratteristiche genetiche che erano presenti in quei fondatori. Quindi non perché fossero le migliori, ma perché è avvenuto che fossero presenti nel gruppo di fondatori. Diciamo che se vogliamo usare un termine, ma è molto inappropriato, diciamo che sono i discendenti di pochi fortunati. Questo è particolarmente interessante nel caso dell'uomo, perché poi lei diceva che la nostra specie ha disperatamente lottato per vincere la forza della selezione naturale. Beh, non la vedrei come una lotta disperata. Sicuramente la nostra specie ha fatto di tutto in modo da sottrarsi a quel carico che è rappresentato dalla selezione naturale. La selezione naturale vuol dire morte di molti individui che non ce la fanno a sopportare le condizioni aspre dell'ambiente. Questo è la selezione naturale. Noi abbiamo fatto di tutto per sottrarci con i vestiti, con il fuoco, con la cottura dei cibi, eccetera, eccetera, con l'igiene e con altre misure. Tutto questo ha fatto in sì che nella nostra specie si è verificato un fenomeno che si chiama rilassamento della selezione. Qualche volta però, in qualche modo, la selezione naturale ha avuto la meglio su di noi, per cui noi portiamo dei geni che sono frutto della selezione naturale. Uno, ad esempio, sono certi geni che ci consentono di digerire certi alimenti. Sì, nella nostra storia recente, e per recente intendo gli ultimi 10-15 mila anni, alcuni geni sono stati soggetti alla selezione naturale, però bisogna dire innanzitutto che sono pochi rispetto al totale, si tratta di qualche centinaio forse. Un esempio che lei faceva è il gene che ci consente di digerire il latte. Sì, esatto, circa 7-8 mila anni fa l'uomo iniziò a essere pastore, quindi ad allevare delle specie che le potevano dare prodotti alimentari, e uno di questi prodotti alimentari è il latte. Se non che l'uomo adulto era incapace di digerire il latte crudo. Il latte crudo è un alimento piuttosto ostico da digerire, perché da adulti noi non abbiamo più gli enzimi adatti. E la selezione naturale ha fatto in modo che nelle popolazioni umane che usavano molto latte crudo si è andato selezionando una forma del gene che invece consente di digerirlo anche da adulti. Quindi insomma il latte, che oggi consideriamo uno degli alimenti più sani che esistano, in realtà nella storia dell'uomo non è sempre stato una cosa positiva. Sicuramente all'inizio non era così positivo come noi lo consideriamo oggi. Pur di sopravvivere, pur di avere una risorsa di proteine ovviamente, di grassi, ma soprattutto di liquidi, l'uomo si è sottoposto a un alimento che inizialmente sicuramente non faceva solo del bene, ma evidentemente aveva anche delle conseguenze. controindicazioni e probabilmente causava una certa quantità di mortalità per infezioni soprattutto. Grazie Andrea Novelletto, buonasera. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Parliamo ancora di evoluzione, ma questa volta non di animali, di esseri viventi, ma di macchine. Se ne è parlato di questo tema, cioè di evoluzionismo delle macchine, al Festival della Scienza di Roma. E a questo dibattito ha partecipato Sergio Carrà, che è qui con noi questa sera. Buonasera Carrà. Buonasera. Professore emerito di ingegneria chimica al Politecnico di Milano. E allora, quando si parla di evoluzionismo delle macchine, ma insomma, forse l'esempio che mi viene più rapido per far capire cosa si intende agli ascoltatori è che se guardiamo le macchine come degli organismi, bene, per esempio il telefono continua ad evolversi, quindi è un animale che continua ad evolversi, poi invece ne abbiamo altri come il fax che è nato e poi adesso praticamente sta scomparendo, e questo è un tipico meccanismo dell'evoluzione. Bene, l'evoluzione, quella animale, ha delle sue leggi, le macchine non nascono da sole, le leggi stanno dentro la scienza e la tecnologia. La scienza e la tecnologia sono quelle, insomma, che governano l'evoluzione delle macchine. Ecco, lei tende a sottolineare un aspetto che magari sfugge molto, e cioè si pensa sempre che sia lo scienziato che studia e inventa i principi di base e poi viene fuori la tecnologia. Non è vero che è sempre così? Non è vero che è sempre così. Questa è una visione che potremmo chiamare lineare, che fra l'altro ha un momento storico importante. Nel dopoguerra, Wilbur Bush, che era allora assistente del Presidente degli Stati Uniti, aveva proposto di finanziare le ricerche fondamentali. Lui ricordava che il laser, la penicillina erano nate da ricerche fondamentali. Pertanto dice, nella ricerca fondamentale nascono coperte, dopodiché è compito nostro sviluppare queste coperte e produrre tecnologie. In realtà, se andiamo a vedere la storia, le cose non sono sempre andate così. Siamo per esempio all'idraulica. I romani erano degli eccellenti idraulici, gli acquedotti romani sono ancora oggetto di ammirazione, eppure non conoscevano i Zibernulli, che sta alla base di tutta l'idraulica. La storia del volo poi è sorprendente, perché Leonardo ha inventato le prime macchine volanti. Però poi ci sono stati dei pionieri dell'aviazione che all'inizio del secolo scorso si sono avventurati in quei voli che ancora vediamo qualche volta in alcuni film che sono stati presi a quel tempo. Bene, se loro avessero conosciuto a fondo la scienza di allora, la fluidodinamica così come era sviluppata, avrebbe detto che non sarebbe stato possibile volare, perché allora si usavano le equazioni di Eulero, che erano un'approssimazione alle equazioni di Navier-Stokes, che non tenevano conto dell'attrito interno dei fluidi, lo ritenevano nell'aria. Questa direi lacuna è stata colmata poi da un grande scienziato tedesco, si chiama Brown, che ha formulato un modello, una teoria, nella quale si teneva conto dell'attrito in corrispondenza delle ali, e ha dato una teoria del sostentamento delle ali. E questa teoria è alla base oggi per la progettazione degli aerei. Tenga presente che la scienza ufficiale, come è nata questo modello, lo ha snobbato, l'ha considerato una cosa secondaria. Ultimo esempio che vorrei fare è quello delle comunicazioni elettromagnetiche. Comunicazioni elettromagnetiche nascono da una grande scoperta scientifica, che sono le equazioni di Maxwell. Hertz poi ha dimostrato sperimentalmente il fatto che da queste equazioni nascessero le onde elettromagnetiche che potessero essere trasmesse. Però la scienza ufficiale ha un po' snobbato le prospettive applicative di questo fatto. L'applicazione che l'ha fatta il nostro Guglielmo Marconi, il quale era alla fin fine un dilettante in un certo senso, cioè non era una persona che aveva una formazione accademica ufficiale, però ha capito l'importanza di questo fatto, lo ha applicato e ha trovato un nuovo fatto scientifico, cioè la scienza ufficiale allora avrebbe detto che non era possibile fare trasmissione a lunga distanza. Lui ha realizzato a farla perché esiste la ionosfera, che allora non era ancora nota, per cui lui ne ha anticipato l'esistenza. Ora, questi fatti dimostrano che scienza e tecnologia sono in un certo qual senso indipendenti, hanno delle non indipendenti, ma hanno delle motivazioni diverse. Lo scienziato è mosso dalla curiosità, vuole fare un sistema del mondo. Il tecnologo, viceversa, è soprattutto volto a a produrre oggetti, a produrre macchine, a produrre strumenti che in un certo senso contribuiscono alla vita dell'uomo o addirittura la modificano. Ad agire soprattutto, il tecnologo soprattutto, è spinto dal buttarsi dentro un'impresa, no? Esatto, perfetto, va bene. Oh, vorrei citare un altro esempio di tecnologo, direi dilettante dal punto di vista scientifico, è stato Edison. Edison è stato un grande tecnologo, però aveva una cultura scientifica molto modesta. Però c'è un fatto, che scienza e tecnologia devono agire in sinergia, ciascuno si alimenta dell'altro in un certo qual senso. E poi un altro fatto importante, il secolo scorso ha veramente dato esempi di grandi scienziati che sapevano fare i tecnologi. Prenda Fermi era un grande scienziato, è stato l'ingegnere del primo reattore nucleare. E però lei forse sarà d'accordo sul fatto che quel tipo di scienziato sta un po' scomparendo. Esatto, questo è un punto molto importante, ed è un punto importante di cui si dovrebbe tener conto in quelli che sono i programmi di sviluppo. Quel tipo di scienziato sta con queste grandi personalità che avevano la capacità di combattere sugli fronti e sapere trovare una sintesi fra questi due aspetti, oggi sta scomparendo. Sergio Carrà, grazie per il suo contributo e buona serata. Buonasera, grazie. Dopo l'energia che si sprigiona dai vulcani o nei tornado o nelle tempeste di mare, forza 8, qual è l'altra forma di energia potentissima che si libera sul pianeta? Il pettegolezzo. Chiara Albicocco vi racconta ora di una ricerca che ha analizzato questa forza indomabile. Un giorno una donna spettegolava con un'amica di un uomo che a malapena conosceva. So che nessuno di voi l'ha mai fatto. Il giorno seguente andò a confessarsi da un anziano prete della parrocchia, padre O'Rourke. «Il pettegolezzo è peccato?» chiese al vecchio prete. «Mi dica, ho commesso peccato?» «Sì», le rispose padre O'Rourke. «Sì, donna ignorante e mal allevata. Hai detto falsità sul conto di un tuo simile. Hai messo a repentaglio la sua reputazione. Dal profondo del cuore te ne dovresti vergognare». Questo spezzone, tratto dal film Il Dubbio, mette in luce la stretta relazione che c'è tra il pettegolezzo e la reputazione di un individuo. Ecco, anche la scienza sembrerebbe pensarla in questo modo. Infatti si è tenuto di recente a Roma un seminario su questo tema e noi stasera abbiamo la ricercatrice che ha presentato le virtù del pettegolezzo. Si chiama Rosaria Conte ed è ricercatrice dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione di Roma. Buonasera Conte. Buonasera. Direi che prima di iniziare forse è necessario dare una definizione, o meglio la connotazione scientifica al termine pettegolezzo che utilizzate voi ricercatori. Il pettegolezzo è un processo sociale che riporta da un membro della comunità all'altro valutazione attribuita a fonti indefinite su un determinato individuo o su un'entità sociale. Quindi si dice che Tizio sia una brava persona, si dice che Tizio sia una persona invece poco raccomandabile. Ecco, quindi abbiamo detto che c'è una stretta relazione tra quello che noi intendiamo come gossip e la reputazione di una persona. Sì, la reputazione è valutazione attribuita a fonti indefinite. Il pettegolezzo è il processo sociale, il tipo di comunicazione che riporta reputazione, che riferisce ad altri sul conto della reputazione di qualcuno. E voi sono 10 anni che lavorate soprattutto su questo tipo di relazione e avete anche stabilito una teoria che poi avete confermato con diverse attività. Negli ultimi 10 anni, in collaborazione con un collega del laboratorio che si chiama Mario Paolucci, abbiamo sviluppato una teoria della reputazione come valutazione riportata, riferita, su cui chi la riferisce non si assume, non si impegna sul suo valore di verità, su quanto sia attendibile, e quindi non si assume responsabilità sulle conseguenze che produce. Questo modello fa riferimento ad una proprietà cognitiva della nostra specie che consiste appunto nel ospitare nella propria mente conoscenze relative alla mente altrui. È grazie a questo meccanismo che si è potuto appunto sviluppare il fenomeno del riportare valutazioni attribuite ad altri. E naturalmente, grazie a questo fenomeno, ciò ha consentito alla nostra specie di allargare le reti di scambio, le reti sociali, quindi progressivamente le comunità e le società. E voi avete svolto proprio su questo fronte anche delle ricerche, se vogliamo dire, un po' antropologiche, avete analizzato anche degli abitanti di popolazioni che magari vivono un po' isolate. Sì, noi non abbiamo fornito evidenze di prima mano di carattere etnografico, perché non siamo antropologi, sì. Tuttavia abbiamo analizzato la letteratura esistente, che è amplissima sull'argomento, e abbiamo riscontrato una netta corrispondenza fra i dati forniti dagli antropologi e il nostro modello. Abbastanza interessante constatare che ci sono società come per esempio le isole Figi, dove esiste un linguaggio che si chiama Tala Noa, uh-huh. Che significa propriamente linguaggio ozioso, che gli abitanti di questi, in particolare villaggio Badgaon di queste isole, praticano, e gli uomini della comunità apprendono, molto codificato. Attualmente il Tala Noa si pratica anche su internet, per tanto per intenderci, ed è un linguaggio con il quale partecipanti ai rituali pubblici di questa comunità tengono sotto la mira del pettegolezzo coloro che potrebbero approfittare delle proprie particolari condizioni di potere per prendere, per assumere il comando, e quindi, diciamo così, per sovvertire l'equilibrio egalitaristico della società. Cioè hanno un linguaggio specifico per il pettegolezzo. Per il pettegolezzo, una cosa curiosa. E ci sono altri esempi di questo tipo? Avete trovato molto altre... divertente. Io ho trovato l'esempio dei Kwanga, che è una popolazione che diciamo utilizza il gossip, il pettegolezzo, in modo abbastanza sorprendentemente simile a come noi lo analizziamo. Dopo aver diffuso un certo pettegolezzo sul conto di qualcuno, sempre allo scopo di tenere sotto controllo personaggi che potrebbero facilmente prendere il sopravvento, e se ci pensiamo questo è un modo di usare il gossip che è abbastanza simile a come accade nelle nostre società attuali, quando vengano fatti oggetto di richiesta da parte degli accusati di fornire prove, tra i Kwanga i pettegoli, diciamo così, si difendono affermando: ma questo era just talk, dice l'antropologo che ha riportato il fenomeno, cioè soltanto solo rumore, solo diceria. Però nel frattempo il messaggio è passato, diciamo così, è andato probabilmente anche a segno. La butta sul vago, diciamo. Si viene buttato sempre sul vago. La forma, le proprietà, lo stile narrativo sono comuni a tutte le società in cui è stato descritto. Direi che nessuno forse ne è privo. Forse il vero dato sarebbe trovare una popolazione che non ce l'ha. Esattamente. E ecco. direi che sarebbe abbastanza difficile, ecco, come compito. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. Vi ricordate quanto pesa l'aria in una stanza normale di 5x4 metri? Abbiamo pensato che sia una stanza alta 3,75 m. Allora vediamo qual è il volume. Abbiamo 5x4x3,75, otteniamo 75 metri cubi. Bene, qui adesso arriva una prima informazione che probabilmente vi sorprende, perché sappiamo da varie misurazioni che un metro cubo d'aria pesa 1,300 kg, cioè 1,3 kg. Allora il risultato è immediato: in una stanza di queste dimensioni abbiamo aria per 96,975 kg, insomma quasi un quintale. Questa era la soluzione. Cosa fa il girasole? Segue il sole. Cosa fa il sole? È una fonte di energia. Allora si può studiare un girasole tecnologico che produca energia. Ve ne parla Maurizio Menis. Con circa 1 kW per metro quadro, la luce solare è una fonte di energia abbondantissima, ma ancora non abbastanza densa, per così dire, da farci bollire l'acqua oppure riscaldare un gas a sufficienza per produrre energia elettrica. C'è il fotovoltaico, come sapete, ma c'è anche un'altra possibilità, ovvero quella di concentrare la luce solare, quindi anche il calore. Si tratta di un'opzione presa in considerazione già negli anni 70, che ha visto nascere sistemi formati da ampie distese di specchi specchi che concentrano la luce del sole in un punto oppure su un tubo rettilineo. E questo è il caso del ben noto progetto Archimede, che presto verrà inaugurato in Sicilia. In tutti questi casi il calore generato viene utilizzato per riscaldare del vapore che a sua volta alimenta una turbina. Si parla perciò di solare termodinamico. Questo tipo di impianti sono dotati di potenza elevata, misurabile in decine di megawatt e quindi destinati decisamente all'industria della produzione energetica. Parallelamente a tutto ciò si è sviluppata un'altra tecnologia che invece è destinata a piccole produzioni da qualche kilowatt in su. E questa tecnologia è basata su specchi parabolici di qualche metro di diametro e su un tipo di motore, il motore Stirling, inventato da un reverendo scozzese a inizio 800 e che tuttavia non ha avuto finora grande fortuna. Un esemplare di questo tipo di tecnologia è stato installato un paio di anni fa a Milano presso l'ERSE, il centro di ricerca dell'Enea sul sistema elettrico. Si chiama Eurodish. Ne parliamo con Vittorio Brignoli, ricercatore dell'ERSE, che ne ha seguito tutta la sperimentazione. Buonasera Brignoli. Buonasera. Allora, ci spieghi un po' come è fatto e come funziona questo Eurodish. Dunque, il generatore Eurodish è un sistema di piccole dimensioni che trasforma l'energia solare in energia elettrica per via termodinamica. Si tratta di una grande parabola in sostanza che riflette e concentra i raggi solari su uno speciale ricevitore, appunto un generatore Stirling, come lei diceva poco fa. Su questo ricevitore si sviluppa calore ad alta temperatura e il motore trasforma questo calore in energia meccanica e da lì poi viene trasformata in energia elettrica attraverso un generatore elettrico di tipo convenzionale. È un oggetto abbastanza simile alle parabole a cui siamo abituati per ricevere il satellite, con la differenza che è molto più grande e invece di puntare sul satellite punta sul sole, inseguendolo anche. Esattamente, diciamo che il funzionamento prevede l'inseguimento del moto apparente diurno del sole dall'alba al tramonto e poi il ritorno in posizione di alba per il giorno successivo durante la notte, in modo completamente automatico. Ecco, senta, il rendimento di questo tipo di tecnologia è piuttosto elevato, tanto per cominciare, anche rispetto al solare termodinamico in competizione con questo. Il rendimento massimo di questi sistemi è superiore a quello del fotovoltaico correntemente installato nel mondo. Nel caso di Eurodish abbiamo un rendimento massimo che arriva al 17% netto di conversione dalla fonte solare alla fonte elettrica. Nel corso degli anni sono stati sviluppati sistemi via via più efficienti, per cui oggi le migliori versioni di questi sistemi arrivano a rendimenti dell'ordine del 24-25% massimo. Allora, la domanda che nasce spontaneamente, 25% è un numero molto significativo se parliamo di rendimento di un sistema basato sull'energia solare. La domanda quindi è, perché si stanno sviluppando molto più gli altri sistemi? Dov'è la criticità? Dunque, la criticità è data sostanzialmente dalla affidabilità e dalla durata del motore Stirling, che è il generatore che converte il calore solare in energia meccanica. Diciamo due cose su questo motore Stirling. Sì, dunque, il motore Stirling è molto simile ai motori diesel e ai motori benzina che abbiamo nel cofano dell'automobile, con la fondamentale differenza che mentre in questi motori l'energia viene liberata all'interno dei cilindri dove si brucia la benzina, esattamente, nel caso di motore Stirling l'energia proviene dall'esterno dei cilindri, che è proprio quello che serve per le applicazioni solari di questo tipo. Si tratta di motori che possono produrre, convertire l'energia termica di origine solare, in questo caso energia meccanica, mediante un ciclo termodinamico che si svolge al chiuso nei cilindri. Nel nostro caso il gas che svolge questo ciclo è elio, in altri casi invece è idrogeno, ottenendo con l'uso dell'idrogeno anche efficienze migliori. Quindi abbiamo un sistema chiuso che assorbe calore dall'esterno, esatto, attraverso un sistema di pistoni che qui è difficile spiegare soprattutto per radio. Il problema è che è un motore chiuso, da un lato è un vantaggio ma dall'altro è uno svantaggio, perché è un po' difficile farci manutenzione per esempio. Sì, dunque la problematica principale di questo motore è proprio la tenuta del gas all'interno dei cilindri. Queste tenute sono realizzate in materiale sintetico, materiale mescole di gomma per semplificare, particolari, che hanno una durata per loro natura abbastanza limitate. Questo si comporta che dopo un certo numero di ore di funzionamento, alto in realtà se confrontato con i motori convenzionali, ma non sufficiente per la generazione di energia elettrica, queste tenute devono essere sostituite e di conseguenza il motore deve subire, diciamo, una procedura di manutenzione. Che è un po' simile a quando nei motori tradizionali si cambiano le fascette, quelle guarnizioni, per così dire, che circondano il pistone, perché il motore Stirling non è lubrificato, corretto? Esattamente, sì, il motore Stirling per poter lavorare ad altissime temperature, perché il ricevitore del motore Stirling lavora a 800, anche 900 dove gradi. Dove incide la luce del sole. Dove incide la radiazione solare concentrata, in questo caso oltre 2000 volte, e naturalmente si sviluppano temperature molto elevate, e questo fa sì che non sia possibile lubrificare le parti in movimento che vengono a contatto con il gas, come invece avviene nei motori diesel e nei motori a benzina. Naturalmente questo comporta che le tenute vadano incontro ad una usura un più deterioramento rapida. E questa è la criticità, insomma, di questo sistema sulla quale si sta lavorando. Tenga conto che comunque la manutenzione è molto più semplice che non quella che devono subire i motori diciamo convenzionali, perché il motore Stirling è estremamente semplice, non ha valvole, non ha organi di distribuzione all'interno e quindi l'operazione di manutenzione in sé è abbastanza rapida, però attualmente è ancora un po' troppo frequente rispetto alle esigenze di economicità di produzione di energia elettrica solare attraverso questo sistema. Guardando invece un po' più al futuro, quali sono le applicazioni di questi sistemi? Abbiamo detto per la produzione di larga scala potrebbe essere meglio utilizzare altre tecnologie. Sì, diciamo che in realtà nel mondo si trovano due tendenze di sviluppo. La prima naturalmente è quella di applicare questi sistemi alla cosiddetta generazione distribuita, ovvero sia ognuno si fa l'energia a casa sua. Esattamente, l'idea è quella di installare un numero limitato di questi sistemi localmente in zone lontane dalla grande rete di distribuzione. Il caso tipico potrebbe essere quello delle isole, le isole del Mediterraneo nel nostro caso, così come in aree abbastanza remote, pensiamo a tante zone nei paesi in via di sviluppo che sono ancora non servite dalla rete elettrica. Però anche in alternativa si stanno sviluppando, specialmente negli Stati Uniti, delle linee di costruzione di impianti di grandi dimensioni, quindi grandi solar farm, per la produzione invece di energia elettrica in grande quantità, come avviene nelle grandi solari centrali che sono già in costruzione nel mondo. Quindi diciamo sono in sviluppo entrambe le linee in situazioni complementari e diverse tra loro. Al momento tuttavia quella diciamo che pensiamo sia la più perseguibile è proprio quella della generazione distribuita. Va bene, grazie Brignoli. Prego, buonasera. Come promesso vi abbiamo parlato di lumache, di pettegolezzi, anche di macchine che si evolvono come animali. Questo era Membius di oggi. Buona serata a tutti e a tutte e alla prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Membius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.